Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno, è Insargante il traghettatore. Questa settimana a bordo abbiamo degli ospiti d'eccellenza del mondo dell'impresa, per una volta un'eccellenza non collegata al business, o perlomeno non solo, perché anche in questo, ma collegata al sociale. Stiamo parlando di Sodalitas, della fondazione Sodalitas, che nasce da Asso Lombarda e che riunisce le imprese attente alle problematiche della responsabilità sociale, che settimana prossima celebrerà in un grande evento, il Sodalitas Day, i suoi primi 15 anni. Ma sentiamo il menù di oggi. Non c'è corporate social responsibility senza Sodalitas, le aziende protagoniste non solo nel business. Dalle World alle Isole Cresco, mini storia delle realtà e delle prospettive dell'attività della fondazione. Dal dire al fare, non c'è sempre di mezzo il mare. Per la seconda edizione c'è solo l'Università Bocconi. Siamo sempre sopra le righe con i nostri sommari, ma abbiamo detto i tratti essenziali probabilmente, poi chiederemo al presidente di Sodalitas, Diana Bracco. Buongiorno presidente. Buongiorno. Che è anche vicepresidente di Confindustria per la ricerca e innovazione, chiederemo lumi, ma dopo aver sentito questa brevissima scheda a cui chiediamo di descriverci nei particolari come è strutturata la fondazione. Nel 1995 Asso Lombarda, la più grande associazione territoriale del sistema confindustriale italiano, promuove la nascita di un'organizzazione che si impegna a costruire un ponte tra mondo di impresa e non profit. Nasce Sodalitas, composta da un primo gruppo di 14 imprese e 10 manager volontari. Nel 2008 Sodalitas si trasforma in fondazione, che oggi è sostenuta da 75 imprese e conta sull'operato di 80 manager volontari. È diventato un modello che si è sviluppato in un network che conta 16 realtà operative e oltre 250 volontari nel paese. Sodalitas è di fatto sinonimo di responsabilità sociale delle imprese. Ecco, presidente, in pochi secondi abbiamo raccontato 15 anni di Sodalitas, li riconosce? Sì, ricordo bene quando 15 anni fa proprio Ennio Presutti mi chiamò, io ero un giovane di associazione di Asso Lombarda e insieme lanciammo questo tema che era fortemente innovativo, cioè portare la cultura dell'impresa nel mondo del non profit in modo da far lavorare al meglio queste potenzialità e d'altra parte far entrare nell'impresa il senso di una responsabilità sociale. D'altronde, presidente, 15 anni fa l'impresa era ancora, non dico un oggetto di conflittualità, ma insomma non era vista come oggi un protagonista del sociale, ma era ancora l'impresa dello sfruttamento, l'impresa della contrapposizione con i sindacati. Sì, la percezione era quella, chiaramente si è modificata. Io comunque ho sempre creduto, anche per tradizione d'azienda e di famiglia, ma ci credo profondamente, che il valore della cultura d'impresa è l'assunzione di responsabilità da parte dell'imprenditore. E questa assunzione di responsabilità è innanzitutto verso le persone che lavorano, ma poi è verso l'ambiente ed è verso il consumatore, cioè diciamo verso la comunità. E quindi questa diffusione di senso di responsabilità io credo che sia un valore importantissimo, soprattutto in questi tempi che sono confusi, è veramente, deve essere una stella polare. Ma infatti rifletto ascoltando la Presidente, che comunque è una bella storia la sua e quella di Sodalitas, anche per questo è a tutto tondo, si comincia 15 anni fa in pieno regime conflittuale, si arriva ad oggi quando la pesante crisi ancora di più chiede un ruolo sociale all'impresa e ancora di più questa impresa questo ruolo sociale se lo sta assumendo, la sta assumendo questa responsabilità, questa è la verità. Sì. sì, questa è la verità, e soprattutto l'impresa in questo momento è veramente ponte verso il futuro, secondo me, tanto che come Sodalitas noi, diciamo da lunedì, che è il nostro Sodalitas Day, abbiamo un nuovo percorso soprattutto su quattro ambiti di attività che secondo noi sono prioritari, e allora soprattutto nel mondo del lavoro l'attenzione ai giovani, all'inserimento dei giovani e alla formazione delle classi dirigenti di domani, tenendo presente che vanno integrate le diversità, tenendo presente che ci sono le pari opportunità. Non dimentichiamo che è stata Sodalitas a portare la carta delle pari opportunità, soprattutto guardando alla salute, alla sicurezza e anche alla gestione responsabile dei cambiamenti organizzativi che in un mondo globale, ahimè, tutti noi dobbiamo guardare con grande flessibilità, perché noi lo vediamo ogni giorno nel lavoro, il fatto di dover competere in un mondo globale ci costringe a recepire velocissimamente i cambiamenti. Con tutto quello che sta accadendo poi a livello sociale, fra l'altro, certo. No? L'inclusione, la coesione sociale. Certo, è proprio questo qui è il grande tema, ed è un tema che non è che ha un percorso di risoluzione, cioè su questo dobbiamo proprio lavorare. E poi effettivamente questi sono tutti temi che vanno nel senso dello sviluppo sostenibile, perché in fin dei conti è quello che noi dobbiamo portare avanti, consci che le persone sul pianeta continuano a crescere, che le esigenze continuano a crescere, che le fonti di energia vanno ritarate, tutte queste complessissime cose, ma noi dobbiamo andare avanti con l'ottica di cercare in ogni processo, prodotto, comportamento la maggior sostenibilità. Quindi poi il rapporto con un mercato sempre più difficile, con tensioni anche internazionali. Il mercato è veramente molto difficile, lei legge in questi giorni, lo dico perché anche noi come azienda ne siamo toccati, che c'è adesso questa corsa dei prezzi di certe materie prime strategiche, anche qui ci sono paesi che li mettono in commercio, non le trattengono, quindi noi siamo soggetti a moltissime spinte e non è facile tenere la barra dritta. Però su questo bisogna avere valori fermi, e allora questo della sostenibilità e della responsabilità sociale per le imprese e per le persone è fondamentale. Presidente, grazie anche di aver involontariamente citato Ferri Botta, la nostra metafora con questa barra dritta, perché in effetti è quello che cerchiamo di fare, di fare anche informazione, perché è un tema che deve coinvolgere la maggior parte delle persone possibili per funzionare. Sì. Grazie e complimenti. A lei, dottore. A presto, Presidente. Noi salutiamo il Presidente, continuiamo il nostro viaggio con altri importanti personaggi dell'universo Sodalitas a bordo, e cominciamo però con rinfrescarvi la memoria su uno dei progetti di Sodalitas. Qualunque crescita è sostenibile quando è compatibile con l'ambiente che la circonda. Un'economia è sostenibile quando le imprese sono in armonia col territorio e la comunità. Per diffondere concretamente la cultura della sostenibilità, Fondazione Sodalitas ha avviato Cresco, un progetto che vuole diventare un movimento di pensiero e di comportamenti conseguenti attraverso l'alleanza tra imprese all'avanguardia e territori virtuosi, Isole Cresco, in cui le aziende trasferiscono le loro buone pratiche a cittadini, giovani e comunità locali. Le Isole Cresco rappresentano un seme virtuoso per la diffusione della sostenibilità in tutto il paese. Tra le tematiche fondamentali del progetto, risparmio ed energia, recupero, riciclo e smaltimento, mobilità sostenibile. Solo così sarà possibile il passaggio da una sostenibilità predicata a una sostenibilità praticata sia dal singolo cittadino sia dalla comunità, per una vera crescita compatibile. Progetto Cresco, sostenibilità per l'impresa, il cittadino e tutta la comunità. Ne abbiamo parlato proprio a Ferry Bot del progetto Cresco qualche settimana fa, perché è un progetto che ha, come dire, alla radice il seme della contaminazione fra il mondo dell'impresa e il mondo pubblico, di una contaminazione positiva, chiaramente costruttiva. E ne abbiamo parlato proprio con Alessandro Beda, vicepresidente di Sodalitas, che è di nuovo qui con noi. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. A cui chiediamo, in questa puntata dedicata a celebrare i 15 anni di Sodalitas, ecco un po' i progetti, fra cui proprio Isola Cresco di Sodalitas, in questi 15 anni immaginiamo che siano stati davvero tanti. Ma diciamo sono moltissimi, purtroppo, e per fortuna in questi 15 anni sono oltre 1000 i progetti a cui abbiamo partecipato. Purtroppo, perché la fatica che avete fatto fosse per quello, vero presidente? Sì, ma non, a noi non piace molto parlare di quello che abbiamo fatto, ma di quello che faremo, però ogni 15 anni ci tocca. E certo. Ecco, e quali sono le grandi direttive, diciamo, del progetto? Ma diciamo, cominciando all'incontrario, all'ultimo progetto, l'avete nominato poco fa, Cresco, che cerca di formare una coscienza di sostenibilità ambientale nei cittadini attraverso la formazione di Isola e Cresco, che sono comuni virtuosi in tutta Italia. Questo è l'ultimo nato dei progetti Sodalitas. Però diciamo che è l'ultimo, ma ce ne sono stati, e me tantissimi, a me, perché il tempo è passato, tantissimi altri. Uno che possiamo dire riguarda forse i più fondanti, i giovani. I giovani, noi abbiamo un gruppo di colleghi che si interessa proprio di formare i giovani all'ultimo anno di superiori per entrare nel mondo del lavoro. Abbiamo formato circa 2000 giovani. Facciamo questo in tantissime scuole della Lombardia e del Veneto, e questo veramente ci dà molte soddisfazioni. Sempre rimanendo nei giovani, parliamo di un altro progetto, Essere Felici a Scuola, che è un progetto contro il bullismo, che è un po' la piaga delle scuole in questi momenti. Ecco, questi sono due progetti sui giovani, però se possiamo parlare di un altro tema che ci sta molto a cuore, sì, la diversità al lavoro. C'è un problema nel lavoro della discriminazione delle diversità. Ecco, noi qui abbiamo due temi, due progetti. Uno di estrarre dal mondo delle categorie, diciamo, deboli, e in questo caso sono il mondo della disabilità, il mondo dei migranti, estrarre dei talenti. Facciamo due grossi meeting a Milano, uno si è appena svolto, e a Roma, per proprio far affluire, far incontrare alle imprese talenti di queste categorie più svantaggiate e poterli inserire nel mondo dell'impresa. Ecco, questo, per esempio, di questo siamo abbastanza orgogliosi. Sempre su questo tema abbiamo lanciato per le imprese una carta della diversità e dell'uguaglianza sul lavoro, in modo che le imprese firmano un impegno, una carta, di avere verso queste categorie un'attenzione e anche un'attività di formazione per poterli inserire al meglio sul lavoro. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Rieccoci in studio con Ferry Bot, che questa puntata la dedica a Sodalitas, all'Associazione Territoriale Assolombarda. Siamo con il vicepresidente Alessandro Beda, stavamo completando, si fa per dire perché non è possibile in pochi minuti, una disamina dei progetti che in questi 15 anni hanno caratterizzato Sodalitas. Ci rimane, dopo i giovani e il lavoro e la scuola, forse la parte adesso più corposa, quella della responsabilità sociale, vero presidente? Diciamo 15 anni fa, quando abbiamo cominciato, il tema della responsabilità sociale d'impresa era in Italia sconosciuto. Noi abbiamo cercato di seminare in questi anni, con discreto successo. Oggi sono ormai migliaia e migliaia le imprese che praticano la responsabilità sociale, e quello in una certa maniera ci inorgoglisce. Grazie presidente, grazie e complimenti soprattutto per l'attività. Alessandro Beda è, insomma, un po' un'icona da questo punto di vista di Sodalitas, la lunga militanza assolutamente indiscussa. Grazie presidente. Sì, a voi. Questo è stato possibile, questo successo, senza ombra di dubbio, anche se non è certamente questo il punto, non è un'impresa che fa profitti, Sodalitas, ma una, come dire, una febbre che ha divorato il tessuto delle imprese italiane, contaminandole di questo bonario, benefico virus della responsabilità, grazie ai volontari di Sodalitas, manager volontari, fra l'altro, oggi sono 85, lavorano per Sodalitas e rendono possibile la realizzazione di questi progetti. Anita Panizia dalla redazione ne ha sentito alcuni di loro per capire l'atteggiamento, per sentire la passione che li coinvolge. Sono Piero Petralli, sono socio fondatore della Fondazione Sodalitas. Sono Alessandro Radice e mi occupo dei contatti con le imprese. Sono Anna Meschiari, qui in Sodalitas mi occupo di sanità. Mi chiamo Giuseppe Sgroi e sono responsabile dell'area giovani, scuole e università della Fondazione Sodalitas. Sentivo il dovere di restituire alla società un qualche cosa di quello che io ho avuto dal mondo del lavoro. La passione che mettevo nel lavoro di manager, oggi ancor di più, è messa in Sodalitas. Sodalitas ha fatto emergere e diciamo un po' anche rafforzare la consapevolezza delle mie capacità e competenze e anche con un po' di presunzione delle mie eccellenze. Il bisogno sociale bolliva in pentola già nei primi anni 90, io non ne ho che sollevato il coperchio. E ringrazio Sodalitas per avermi sostenuto e per aver rappresentato il luogo idoneo a sviluppare questa mia aspirazione. Sodalitas mi fa sentire giovane. Beh, insomma, se volevamo avere un'idea del sentiment che accompagna i volontari nell'attività con Sodalitas, questo servizio decisamente ci dà l'idea. E adesso a Ugo Castellano, che è consigliere delegato alla gestione di Sodalitas, buongiorno. Buongiorno. Chiediamo la conferma in questo senso: questi 85, senza questi volontari Sodalitas oggi sarebbe, non so, un esercizio intellettuale probabilmente. Sarebbe magari una buona intenzione su un pezzo di carta, ma non avrebbe sicuramente la possibilità di mettere in atto tutti i progetti che noi facciamo. Noi rappresentiamo, i volontari rappresentano la nostra forza lavoro e senza la quale ovviamente nessuna organizzazione, tantomeno Sodalitas, potrebbe realizzare qualcosa di buono. Ecco, questi volontari si avvicinano spontaneamente a Sodalitas, immagino che avete anche un problema forse di eccesso alle volte. No, più che di eccesso, il problema forse è di orientare e incanalare queste tante energie nelle direzioni corrette. Questi volontari sono delle persone straordinarie, sono persone che dopo 35-40 anni di lavoro, invece di andare ai giardinetti a leggere il giornale, hanno deciso di mettere le loro competenze al servizio di chi ha bisogno. Fantastico, indubbiamente una storia forse anche molto italiana, Castellano, che dice, cioè probabilmente c'è molto del Mediterraneo e del Latino in questo atteggiamento. Sicuramente è un Sodalitas è un unicum, non esiste un'altra struttura di volontariato che opera come operiamo noi, perché a fianco ai volontari noi operiamo insieme con le imprese ed è dal mix, dalla combinazione, dalla collaborazione di queste due energie che la cosa funziona bene. La ricetta è volontari più imprese. Fra qualche giorno, il 26 aprile, peraltro, Sodalitas Day, la giornata di Sodalitas, questi 15 anni, una grande appuntamento con una sfilata di manager, super manager industriali, insomma il mondo dell'impresa che si avvicina, che celebra la propria sensibilità. Come è organizzata questa giornata? Ma fondamentalmente l'obiettivo è quello di restituire a quelle 75 imprese che in questi anni hanno sostenuto Sodalitas il valore, il senso del loro impegno sociale. Queste imprese fanno una serie di iniziative molto belle, ma che molto facilmente sono poco conosciute e soprattutto nessuno riesce a percepire il valore complessivo di questo impegno, perché esistono le singole iniziative, le singole imprese e nessuno si è preso la briga di mettere insieme, diciamo così, la massa critica che oggi rappresentano queste imprese. Come organizzate il convegno? Due battute giusto per presentarlo? Il convegno è una giornata per noi molto speciale, perché al mattino ci sarà una sessione plenaria con la partecipazione degli imprenditori, delle istituzioni sarà presentata una importante ricerca sul futuro della responsabilità sociale in Italia, saranno presentate tutta una serie di informazioni che fanno un po' il punto e gettano uno sguardo sul futuro della sostenibilità nel nostro paese. Nel pomeriggio i quattro temi classici della responsabilità sociale, ossia l'ambiente, la comunità, il lavoro e il mercato, saranno i temi di quattro sessioni di approfondimento a cui parteciperanno gli addetti ai lavori con il contributo e l'introduzione di alcuni tecnici molto rinomati e molto prestigiosi per fare il punto della situazione. Molto bene, grazie Castellani, complimenti ancora per questa attività. C'è una parte di Sodalitas Day poi che ogni anno come dire, traduce in termini un po' più concreti di quanto non si riesca a fare con le parole belle peraltro e con i convegni importanti, ed è una manifestazione che si potrebbe chiamare fieristica. Quello che avete sentito, questa bella musichetta, in realtà è uno spot audiovisivo che quindi voi non potete vedere, ma ve lo facciamo gustare ugualmente perché è lo spot del 2009 Dal dire al fare. Rossella Sobrero, buongiorno. Buongiorno. Rossella Sobrero di Coinetica è, come dire, la madre, possiamo definirti la madre del dire al fare? Sì. Oh mamma mia, troppa sì. Responsabilità. Impegnativo, però è cominciata con te questa avventura che è quella di tradurre in qualche modo, di dare un segno concreto di che cosa vuol dire responsabilità sociale, appunto, dal dire al fare. Quest'anno siamo arrivati a quale edizione, Rossella? Siamo alla sesta edizione e naturalmente è in crescendo. Siamo molto contenti perché da una manifestazione piccola e con poche persone che venivano a visitarla e ci credevano, siamo arrivati a una manifestazione con grandi aziende, ma soprattutto anche con una grande partecipazione di operatori, di giovani, di studenti, e quindi insomma che siamo si tiene, ecco, si tiene in autunno, no? E si tiene il 28-29 settembre in Bocconi, nella nuova sede della Bocconi, che appunto ci consente di poter allestire dei percorsi, di mostre, di poter gestire un matching responsabile tra i presenti, di poter fare laboratori, incontri, e poi una cosa che, alla quale tengo moltissimo, che è lo spazio giovani, che è un'attività dove noi coinvolgiamo gli studenti delle scuole superiori che fanno una piccola mostra, ma soprattutto quelli dell'università che incontrano le imprese e con le imprese creano nuovi progetti e nuovi prodotti. Beh, indubbiamente, e questo ci piace molto, dal dire al fare, soprattutto rivolta ai giovani. Sì, diciamo che la nostra idea di consentire anche alle imprese di sentire la voce dei giovani, perché spesso si tratta di mettere in sintonia, no? Questi due mondi, il mondo dell'università, il mondo della scuola e il mondo dell'impresa, per fare in modo che tutti abbiano ovviamente dei vantaggi, perché il tema di quest'anno, non te l'ho detto, ma sono i vantaggi, vantaggi per le imprese nell'agire responsabile, vantaggi per tutte le organizzazioni, per la società civile, per le persone, vantaggi per tutti. Benissimo, grazie Rossella Sobrero, complimenti e in bocca al lupo per la sesta edizione del Dire a Fare. Grazie a voi. Noi abbiamo completato questo viaggio, avete sentito che a bordo avevamo ospiti illustri e soprattutto persone sensibili e attente alla responsabilità sociale. Grazie ad Anita Panizzi in redazione e a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che Sferibot si può ascoltare anche sul sito di radio24.it. A presto.